pronti a manifestare tutto ciò che desideriamo nella nostra vita? La maniera migliore per realizzare i nostri desideri è andare in una profonda onda Theta. Questa è una guida verso uno stato simile all'ipnosi per portarti a quella vibrazione cerebrale, detta Theta, che ti aiuterà in questo intento. La prima cosa da fare è rilassarsi e stare comodi. La posizione da sdraiati è consigliabile. Adesso respira profondamente, eliminando tutta l'aria dai polmoni. Fai un altro respiro, lento e profondo, ed elimina l'aria lentamente. Adesso un altro respiro. L'aria che entra ti dona energia e rilassamento. Espirando invece ti liberi da ogni tensione. Ispiri energia ed espelli ogni disarmonia. Adesso un altro respiro profondo, gonfia l'addome. È energia in entrata, ma espirando elimini ogni tensione, ogni disarmonia e tutto ciò che non ti è utile. Continua così a respirare. Adesso, se puoi, se riesci, esercita una respirazione circolare e continua soltanto con il naso. Inspira l'aria lentamente e senza pausa, espira l'aria con la stessa lentezza, come formare un cerchio. Te la descrivo meglio, ma tu continua pure a respirare naturalmente e solo col naso. Inspira e formi un semicerchio dietro le spalle, dal tuo naso dietro le spalle. Il respiro giunge sopra i reni, penetra e gonfia il tuo addome. Eliminando l'aria invece, formi un semicerchio inverso davanti a te, dal naso all'ombelico. Il tuo respiro forma una ruota. La immagini? Disegna adesso questo cerchio respirando. Così facendo, ogni respiro ti rilassa sempre più. Ogni respiro ti rilassa maggiormente. Continua a respirare. Immagina adesso di trovarti in estate a trascorrere una splendida giornata di sole. Sei sopra uno scoglio non molto alto. Sotto di te vedi il mare, che oggi è limpido e blu. Preparati solamente, ti avviso io quando tuffarti. Entrerai in acqua con i piedi. Un salto e cadrai di peso dentro questo mare calmo e tiepido. Continua a respirare, proprio come adesso stai respirando. Mantieni il tuo rilassamento. Ti avviso io quando tuffarti. Sentirai a seguire la pressione dell'acqua mentre cadi come a rallentatore. Preparati a tuffarti e adesso lentamente. È tutto rallentato. Dapprima il blu del mare avvolge le tue caviglie. È tutto molto lento. Le avvolge le tue caviglie, le stringe. Poi viene su per le gambe, che comincia a sentire pesanti per la pressione dell'acqua. Senti le tue gambe pesanti. Adesso le ginocchia rilassate e avvolte in questa luce blu. Più su, senti gli arti inferiori pesanti e rilassati, avvolti in quest'acqua. Anche i fianchi sono immersi dentro l'energia blu di questo mare. Senti le tue gambe pesanti e la pressione dell'acqua le avvolge. Ancora più su, adesso stai immergendo il tronco fino all'altezza del cuore, dove senti l'acqua. Senti addosso il peso di quest'acqua, il tepore di questo mare. Preparati e decidi di immergerti del tutto, totalmente, collo, testa, perfino i capelli, dentro questo splendido mare. Lo senti? Sei totalmente immerso. Ti comprime, ti schiaccia, ma ti culla e ti accarezza. Senti il fisico, il tuo fisico è pesante, è molto pesante, e mantieni un profondo rilassamento. Adesso il tuo respiro è lento e naturale, è continuo, anche dentro questo blu. Senti la corrente, adesso, che ti sospinge lentamente verso la spiaggia vicina. Nessuno sforzo, rimani nel rilassamento. È il mare che ti porta a riva e ti adagia sulla spiaggia deserta di sabbia dorata. Immaginati adesso nella posizione sdraiata e sei sulla spiaggia. Il tuo viso rivolto al cielo azzurro e al sole. generato dal grande rilassamento e ti comprime sulla sabbia tiepida e assolata. Senti il calore del sole, senti come un caldo sulla fronte. Il tuo fisico adesso è davvero rilassato. Ti senti come in preda al sonno. E così decidi di lasciarlo sdraiato, lasciarlo riposare, lasciarlo godere di questo sole, mentre la tua energia si solleva e si stacca dal tuo corpo, sulle braccia, e si pone in piedi sulla spiaggia a guardare il mare che è di fronte. È uno splendido mare. Se ti girassi adesso, vedresti il tuo fisico sdraiato e perfettamente rilassato, sorridente, beato e con gli occhi chiusi. Alza lo sguardo, scorgi un bosco e oltre la spiaggia. Decidi pure di raggiungerlo, di fare due passi. Vuoi scoprire e conoscere. Così avanzi verso un bosco verde smeraldo. È un bosco luminoso. Ti avvicini e giungi su un prato verde di erba fresca. Vedi gli alberi. In mezzo alle foglie filtrano abbondanti raggi di luce. Senti anche la presenza di animaletti, uccellini, scoiattoli, lepri, ma sono tutti mansueti e non sono per niente stupiti nel vederti dentro il bosco. Adesso senti un rumore come lo scalpitio di cavalli. Cerchi con lo sguardo fra gli alberi e il verde e dovresti vederli e li vedi. Sono diversi, uno scuro, uno marrone, uno nero, un altro col pelo rossastro, tutti alti e maestosi. Dovresti cercare un cavallo bianco. Guarda, osserva, scova. Lo vedi? Adesso lo vedi? C'è un cavallo bianco bellissimo. Lo vedi? Ma è Pegaso. Ha le ali. È amichevole. Ti avvicini, lo accarezzi e decidi di montare sopra di lui. Wow! Siete pronti? Pronti a spiccare in volo? Pronti? Ora volate verso l'alto, verso il sole, verso la luce, verso l'alto, sempre più in alto, ascolta queste parole, andate adesso in alto, sempre più in alto, vedi la luce luce avvicinarsi, ingrandirsi. C'è tanta luce. È una luce gialla, molto chiara, che tende al bianco. C'è molta luce adesso e tu la attraversi insieme al tuo cavallo bianco. È una luce che attraversandola sembra come densa, compatta, morbida come una caramella, impalpabile come una nuvola di luce, è piena. E tu la attraversi, sei dentro la luce. Adesso il suo colore è di un bianco perlato. Lo vedi? Bianco perlato. Sei dentro una sostanza di luce densa e leggera. E l'attraversi. L'attraversi del tutto, agevolmente. Adesso sei dentro un ambiente mai visto prima, trasparente, pulito, lucido, vuoto e molto spazioso. Immagina adesso tutto ciò che desideri di più. Immagina tutto quello che desideri possa accadere nella tua vita, senza limiti, qualsiasi cosa. Oggetto, evento, persona, vantaggio, risultato. A partire da ora elenca i tuoi desideri. Immagina creativamente. Scusa se interrompo, ma puoi utilizzare l'affermazione io voglio, io scelgo, oppure se aspiri a una condizione io sono. Passa in rassegna tutto ciò che di bello hai sempre desiderato ottenere. Continua a formulare i desideri. Che è bene essere chiari, fai ancora l'elenco dei tuoi desideri. desideri come fossero dei regali in miniatura dentro una sfera di vetro trasparente. Ce n'è una qui per te. Afferra le immagini dei tuoi desideri. Raccogli e metti dentro la sfera trasparente. Uno ad uno. Sono tutti dentro. Sono tutti dentro? Bene. Adesso tieni stretta la sfera e preparati a ritornare. Ringrazia. Lo faccio anch'io per te. Grazie. Grazie per tutti questi doni. Grazie davvero, grazie. Il tuo fedele destriero, Pegaso, ti aspetta. Monta sul cavallo alato e vola in picchiata velocemente verso il basso, verso il puntino verde smeraldo che è il bosco dal quale siamo partiti. Vedi un puntino verde che si allarga e vedi il prato dove atterrare. E atterri. Fatto. Saluta Pegaso, fai un inchino al nobile cavallo e adesso corri verso la spiaggia di sabbia dorata. Felice, sorridente. E tieni stretta la sfera trasparente, avvinghiata sul cuore e stretta sul petto. Sulla spiaggia deserta c'è ancora il tuo fisico, sdraiato, sorridente, rilassato, come quando si sta al mare. È come se dormisse. Tu adesso sei energia di luce. Adesso sei luce. E ti siedi sul tuo addome, leggermente e dolcemente. Sei energia. E ti sdrai per riprendere la posizione dentro il tuo fisico. Coscienza, controllo degli arti, prima dalle gambe, poi dalle braccia. Muovi adesso le dita delle mani, riprendi possesso e coscienza. Appena sentirai di farlo, puoi aprire gli occhi. Procedi dunque con un elenco dei desideri in questo stato di coscienza. Vai ora. Thank you. meditazione guidata è qui conclusa. Riprendi pure coscienza, senza fretta. Muovi le dita. Riprendi coscienza. Muovi un po' le spalle, i piedi, le gambe. Appena ti senti pronto per farlo. Domani andremo a prendere un'altra sfera trasparente e altri doni. Ciao, a domani.